resto qui tra le mie mani, il resto del dolore. E resto qui tra le mie mani, è una contraddizione. Me ne andrò contro vento, sarò via in un momento. Me ne andrò contro vento, sarò via in un momento. Ora vorrei spiazzare il tempo senza far rumore. Tutto va via e mi lascia qui a guardarmi frantumare. Non c'è poesia né voglia di aver timore. La cera brucia, adesso non mi servono.